Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Di fronte a me c'è Sonia. Senza pensarci troppo le chiedo: sei già con qualcuno? Se ti va, ho ancora un posto in macchina. E lei mi risponde: volentieri. Seguito da un sorriso che ci manca poco che svengo. Mi chiamo Danilo, abito a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, sono agente di commercio, vendo pneumatici e ho 45 anni. Avrò avuto, credo, 10 anni, forse di meno. Però per me, quando mi ricordo come bambino, mi ricordo intorno ai 10 anni, perché poi ti ricordi invece che ne hai 12-13 e vorresti essere un po' più grande. Avrò avuto 10 anni e con i miei genitori eravamo in montagna, in Valsesia, dove i miei genitori hanno da sempre una casa. E quella mattina i miei genitori, che non sono dei camminatori particolari, dicono: dai, andiamo su a Mera a piedi. Mera è un'alpe che c'è proprio in Valsesia, che non è altissima, saranno 1500 metri, però dalla valle sono 500-600 metri di dislivello, forse di più, dipende da dove parti. E io mi ricordo, non avevo nessuna voglia, e mi ricordo di fronte a quella montagna, in una giornata di sole, strano per la Valsesia, ci sono sempre un po' di nuvole, guardo questo monte, vedo l'ometto, questo monte che c'è in cima all'Alpi di Mera, tutto verde, pieno di alberi, e penso: no, sta montagna per me è troppo, non ce la farò mai. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, oggi è un bel venerdì, chiudiamo questa settimana con una storia, con la storia di Danilo, che ha esattamente questo tema: troppo per me. Vi sarà capitato di fronte a una montagna, di fronte ad un lavoro, di fronte ad un impegno, di fronte a una donna o ad un uomo, a una donna, come succede per Danilo e come ci racconta in questa storia, di pensare: questo è troppo per me, non ce la faccio, è troppo bello, è troppo grande, è troppo importante, è troppo complicato. 349-238-6666, oppure Voi siete qui Radio 24 al profilo Facebook. Abbiamo anche un profilo Twitter, ovviamente, che è Voi siete qui R24, o semplicemente il mio diretto, che è Matteo Caccia. Marina mi scrive un SMS immediato: quel lavoro da manager in Svizzera con 5 persone da gestire mi sembrava troppo. Non lo era, e adesso ne gestisco 20. 349-238-6666, che poi è ovviamente una questione mentale, cioè è una questione psicologica, no? Per cui non hai ancora fatto un passo, non hai ancora preso in mano una penna, non hai nemmeno provato a baciare quella ragazza, però subito ti dici: dai. E che è un po' come guardarsi allo specchio e dire: ma guardati come sei, ma ti pare, ma non ce la farai mai, ma figurati in quell'ufficio con quelli, ti mangiano, oppure ma figurati appunto a fare tutto il cammino di Santiago, no, è troppo per me. E invece no, invece magari basta partire o basta provarci. Paolo al 349-238-6666: avere 3 gemelli tutti in una volta sola sembrava troppo. Beh, Paolo, forse sembrava troppo più a tua moglie, tra l'altro, avere 3 gemelli tutti in una volta sola. E in effetti era tantissimo, ammette, però è una goduria. Questo messaggio di Paolo può essere letto in diversi modi, devo dire, perché è una goduria adesso che hanno magari 19 anni oppure 20. Però continuo a pensare che sua moglie forse l'abbia accusata un po' di più. E poi Gianni: ho aperto un ristorante senza avere alcuna esperienza, e quello era evidentemente troppo. Mi sono fatto aiutare e ora ne ho aperto un altro. A lei Gianni, non so a che punto sei in questo momento, ma 349-238-6666. Leggevo l'altro giorno un articolo sul desiderio di alcune persone che hanno un posto sicuro, oppure che hanno un posto traballante, che decidono di mettersi in proprio. E questo in realtà era un articolo che scoraggiava dal fatto di mettersi in proprio, perché è un cambio di vita totale, che era abbastanza in controtendenza rispetto a quelli che dicono: ma sì, fai la tua avventura, apriti una partita IVA, mettiti da solo, fai il consulente, sarà meglio di quando lavoravi sotto un capo. L'articolo invece diceva esattamente il contrario: prova a misurare, a fare due calcoli e a vedere se forse non ti conviene rimanere lì. È troppo per me. 349-238-6666, questa è la storia di Danilo. Avevo 20 anni, un lavoro da apprendista meccanico pagato 700.000 lire al mese, di cui un terzo lo davo in famiglia, un bel gruppo di amici e tanta voglia di divertirsi. Come si può intuire, finanziariamente non ero messo proprio benissimo, però grazie all'aiuto di mia madre e a qualche lavoretto extra non mi mancava nulla. Per complicarmi un po' la vita, avevo sostituito la mitica R4 del 72 con una Y10 nuova di pacca, con conseguente debito verso i miei genitori di 12 milioni di lire, perché in teoria con la macchina nuova si cucca di più. Ho scoperto poi che erano tutte balle. Ho iniziato a fare il meccanico perché è il primo mestiere che avevo trovato dopo le scuole, che avevo fatto una scuola professionale, e il primo mestiere che avevo trovato era meccanico. Poi però il mio futuro si è sviluppato nei pneumatici e tuttora lavoro nel campo dei pneumatici. Nel periodo natalizio nella nostra compagnia si univano anche Federica e Chiara, due ragazze toscane che passavano le vacanze di Natale dalla nonna. Quell'anno, poco prima di Natale, Federica e Chiara si presentarono al bar con un'amica di Milano di nome Sonia, anche lei in vacanza dalla nonna per le feste natalizie. Sonia era bellissima. Lunghi capelli scuri, un viso che incantava e un fisico da urlo. Subito scattò la competizione tra i fighi del gruppo. Chiaramente io non ero tra quelli. Come si dice dalle mie parti, io ero dei picchenaie e neanche ci provavo a mettermi in competizione con loro. Ricordo che dal 22 dicembre fino alla sera di Capodanno ci fu una bella lotta per cercare di accaparrarsi le attenzioni di Sonia, con scarsi risultati da parte di tutti. Capodanno 89-90. Dario si era preoccupato di tutta l'organizzazione. Cena in pizzeria e poi a ballare al Rouge Noir a Lurisia, dove aveva prenotato i tavoli con tanto di spumante. Ritrovo al bar Atletica alle 19. Arrivo al bar con i soliti 10 minuti di ritardo. Ci siamo praticamente tutti. Dario, forza gente che per le 8 dobbiamo essere in pizzeria. Organizziamo le macchine. Di fronte a me c'è Sonia. Senza pensarci troppo le chiedo: sei già con qualcuno? Se ti va, ho ancora un posto in macchina. E lei mi risponde: volentieri, seguito da un sorriso che ci manca poco che svengo. Da quel momento non so esattamente cosa successe. Sembrava che tutto girasse a mio favore. Anche i miei amici più cari, Dario, Massimo e Tonino, si meravigliarono di come stavo gestendo il tutto. Passato il brindisi di mezzanotte, il DJ mise un lento. Sì, ai tempi si ballavano ancora. Lei mi abbracciò e poi... Era molto bella, era molto alta, era alta 1,75, 1,77, quindi più alta di me di 5-6 centimetri. Era di una famiglia bene di Milano, faceva anche un po' la fotomodella, ed era molto bella. Ricordo benissimo la felicità di Dario, Massimo e Tonino nei miei confronti e la falsa superiorità e incazzatura dei fighetti del gruppo, e da quel momento fino al giorno della Befana ho passato uno dei periodi più belli della mia vita. Tonight you're mine completely. You give your in cima a una montagna, Danilo, beh, insomma proprio montagna, però non ci sono piante intorno, Tiz, quindi è per forza sopra i 2000, no, non vuol dire, non c'è il limite dei 2003, qual è il limite delle montagne? Però magari non è in Italia, o magari semplicemente non ci sono piante a 1000 metri, può essere, no, che non ci siano. Paolino Corleone ride per il suo passato da scout, però è bardato come un montagnino nella foto, ha una bandana in testa abbastanza inguardabile, guarda l'obiettivo come dire: dai, fai sta foto che andiamo. Pronto Danilo? Pronto Matteo, ciao, buongiorno, come stai? Bene, tutto bene, un piacere parlare con te, guarda, anche per me. Dove ti trovi esattamente, Danilo? Adesso sono a Villa Franca d'Asti, che devo entrare da un cliente, sono a 3 chilometri da lui, via. Perché tu ci hai raccontato velocemente che sei partito facendo l'assistente meccanico, poi lavori nei pneumatici. Esattamente cosa fai nei pneumatici? Io sono un agente di commercio di una ditta di pneumatici ricostruiti, prevalentemente di pneumatici ricostruiti. Cioè, e che sono pneumatici? Dei vari gommisti, vado a raccogliere le carcasse da poi ricostruire. Ah, cioè sono pneumatici riadattati, cioè vecchi pneumatici? Vecchi pneumatici che noi recuperiamo la carcassa e nulla, gli rifacciamo il battistrada sopra e li riutilizza per una seconda vita. Quindi è la grande teoria del riciclo anche nel mondo dei pneumatici. Esattamente, poi l'ecologia e tutto. E come va il business? Ma il business adesso è un momento un po' difficile, un po' difficile, ma non ci arrendiamo. Poi durante i periodi difficili ovviamente subito il riciclo, beh, che mi frega riciclare, voglio risparmiare. Costano di più i vostri pneumatici? No, costano di meno perché tu hai la materia prima, che certo, sarebbe la carcassa, certo. È già in tuo possesso. Certo. Il problema è che la gente non si fida del ricostruito, perché c'è le vecchie serie che scoppiavano, però adesso ormai si è arrivati a delle tecnologie dove sono equivalenti alle nuove. Ma automobili, un buon prodotto, chiaramente. Automobili o di qualsiasi cosa, camion, trattore? No, noi soprattutto facciamo automobili, anche per autovettura, ma il nostro business principale è l'autocarro, il movimento terra, le pale gommate. Cioè che è un po' il sogno di ogni bambino, insomma, lavorare con gli autocarri. Esatto. Se penso che una volta sono andato in una cava, è arrivato un caterpillar enorme e ho proprio detto, pensa se l'avessi visto 40 anni fa, mi scioglievo. Tra l'altro, scusami, poi torniamo alla storia, si dice i pneumatici o gli pneumatici? I pneumatici. I, con la I, giusto? Sì. Con determinazione, ok, perfetto. Senti, invece Danilo, veniamo alla storia di la ragazza che noi abbiamo chiamato Sonia, che non è il suo nome, tu dicevi, io non la vedo da chissà quanto, però siccome abbiamo avuto qualche problemino in passato con i nomi, allora l'abbiamo chiamata Sonia, e Sonia rimane. Era bellissima Sonia, o la racconti benissimo, oppure era proprio uno schianto. No, io adesso non l'ho mai più vista, però ai tempi era veramente bella, veramente bella. Senti, tu sei piemontese, vero, del Piemonte? Di Cuneo, Doc. Di Cuneo, per cui si andava a fare il Capodanno a Lurisia. Lurisia. Ma Lurisia non è famosa per le terme, per l'acqua buona? Sì, ci sono anche le terme, l'acqua buona ed è a 30 km da Cuneo. E famosa all'epoca per il Rouge Noir. Esattamente. Che era un po' la discoteca. Il Rouge Noir e il Phoenix. E noi andavamo un po' da una parte e un po' dall'altra. Adesso sono chiuse tutte e due. Danilo, noi eravamo veramente tutti, cioè perlomeno adesso noi non lo so gli ascoltatori, ma io mentre leggevo che sei stata la tua storia ero totalmente con te, nel senso che quando appaiono queste e tu cominci a dire, ma figuriamoci, io non ero il tipo, io ero, tra l'altro ti chiedo la traduzione esatta di questa frase, dalle mie parti si dice dei picchenaie, è giusto? Sarebbe dei picchenaie in piemontese, vuol dire dei... sono della categoria dei più che ce n'è, cioè né bello né brutto, via, cioè normale. Ah, ok, dei più che, cioè che ce n'è tanti così. Sì, dei più che ce n'è, ok. Per cui già da quando, insomma, le prime righe si capiva, no, che questa sembrava inarrivabile, ovviamente ho fatto il tipo per te, e però dicevo anche tra me e me, come quando vai a vedere un film che dici, però se ci hanno fatto il film ci sarà, no, alla fine lieto fine, se ci ha fatto la storia ci sarà lieto fine, e infatti alla fine c'era. E quel periodo da Capodanno, la Befana più bella della tua vita, un pochettino sì, ce lo immaginiamo anche noi. Sai cos'è? Poi ho 20 anni e mi sono portato dietro una cotta di quelle che ti bruciano per 2 anni, poi non è finita lì a te in realtà no, poi la cosa è andata avanti 3 mesi, però lei era a Milano, poi era, cioè, anche economicamente io sono andato a trovarla 2 o 3 volte, ma mi riduceva all'astrico per andare da lei Cuneo Milano, sì. Era una roba proibitiva, ma non tanto Cuneo Milano, una cosa proibitiva, che poi magari arrivavo lì la mattina, tipo una volta sono arrivato lì la mattina col treno, andiamo a mangiare fuori, va bene, ovviamente fai il cavaliere, paghi tu. Certo. Mi ha portato in un ristorante dove ho speso, ai tempi mi sembra 80.000 lire, che è una cosa folle. Ah, ti credo. Così ho detto, cioè, però non hai battuto ciglio, grandi. Non hai battuto ciglio, Danilo, figurati, Sonia, non ti preoccupare. Ma figurati, faccio io, ma stai scherzando, vero? Guarda, mi offendo. Sì, quindi... però nel frattempo io ero senza una lira, sai, quelli, ero il classico che faceva il figo, ma in realtà non avevo una lira. Tu hai la tua Y10 straordinaria, di che colore era la Y10? Senti, c'era verde scuro, metallizzato. Senti, poi dall'epoca la tua vita com'è andata? Cos'è successo? Sei sposato? Adesso mi sono sposato 2 volte, via, diciamo che ho dovuto cambiare moglie, ma poi ho fatto... Ho dovuto, sembra che t'hanno obbligato, Danilo, sembra che t'hanno obbligato, ho dovuto cambiare moglie, poi, insomma, adesso però sei tranquillo. Sì, sì, no, adesso sono tranquillo. Mi sono addirittura risposato, anche se non ero d'accordo, però vabbè. Vabbè, è la storia di un uomo obbligato dalle donne. Danilo, grazie ancora, ti lascio andare dal cliente. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ciao, grazie, a presto. Guarda, complimenti. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Claudio è un ragazzo che ho conosciuto qualche estate fa. Era un ragazzo di Torino, grande tifoso del Toro e grande imbonitore. Passammo 2 settimane insieme ad altri 30 ragazzi frequentando un corso di vela sull'isola di Caprera, nel nord della Sardegna. Claudio non era bello, per dire la verità non era nemmeno brutto, ma a meno che uno non sia bello di nascita, c'è un'età, soprattutto per i maschi, tra i 15 e i 18 anni, forse 19, in cui ancora la faccia e il corpo non hanno preso una forma vera e propria. Quindi era più o meno come tutti noi, tranne un paio, biondi e pettinati, che Danilo catalogherebbe come i fighetti del gruppo. Le ragazze in quel corso non erano molte, ma ne ricordo almeno 2 molto carine. E col tempo e la convivenza forzata di quelle 2 settimane, dopo circa 10 giorni, quelle carine diventarono almeno 6 o 7. Più si avvicinava la fine del corso, più gli obiettivi si chiarivano e soprattutto in camerata, la sera, ognuno era obbligato a dichiarare il proprio obiettivo, in modo da evitare un fuoco incrociato su una sola ragazza che poteva portare ad un nulla di fatto per entrambi i pretendenti. Claudio, sin dal primo giorno, era andato dritto su Giada, che già dal nome, Giada, così pieno di A, di I, già si capisce quanto fosse desiderabile. In barca andava molto bene e questo aumentava ovviamente il suo fascino, al punto che non era più solo un bersaglio di noi allievi, ma rischiava di diventarlo anche di qualche istruttore che, è inutile dirlo, poteva fare forza su lebbe molto più intriganti delle nostre. Ma Claudio non si fece spaventare e saranno stati i suoi canti che inventava e plasmava apposta per il gruppo, sarà stato il suo senso dell'ironia unito alla sua totale incapacità a stare su una barca a vela che addirittura 2 sere prima della fine del corso Giada cedette alle sue lusinghe. Sul traghetto di ritorno parlai con lui senza chiedergli come avesse fatto, ma lui sapeva che tutti si ponevano quella domanda e lui mi disse una frase che ad un ragazzino di 17 anni rimase impressa, che ricordo ancora oggi, ad oltre 20 anni di distanza. E la frase diceva così: se tu ti senti uno sfigato, lo penseranno tutti. Se tu non ci credi, non ci crederà nessuno. E alla fine della storia di Danilo ho capito che, primo, lui ci ha creduto fortemente e infatti ha dato ragione a Claudio. Secondo, la Y10 non era proprio il modello d'auto esatto con cui si cuccava. Terzo, gli amici fighetti di solito non sono proprio degli amici. Quarto, quelle che vengono dalla città sono sempre affascinate dall'autoctono. E soprattutto, quinto, la storia di Claudio è un po' la storia di tutti noi. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, from A to Z, my life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true. Finisce l'ultima puntata della settimana di Voi Siete Qui. Io vi auguro un buon fine settimana da godervi come volete, con chi volete e dove volete. Se volete però scaricarvi i podcast, andate sul sito di Radio 24, ci sono tutti i podcast della trasmissione, o sono su iTunes o altrimenti con la app di Radio 24. Grazie ancora a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Margherita Ina, grazie però soprattutto a Danilo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.